Questionario sulle rendite. Parte prima. Definisci il concetto di rendita finanziaria. La rendita finanziaria è una successione di somme esigibili o pagabili a epoche diverse. 2. Che cosa significa periodo e che cosa significa durata della rendita? Il periodo è l'intervallo di tempo che intercorre tra una rata e la successiva. La durata è la somma di tutti i periodi. 3. Come si classificano le rendite rispetto alla durata? Rispetto alla durata si classificano in temporanee o limitate e perpetue o illimitate. 4. Come si definisce il montante di una rendita? Il montante di una rendita è la somma dei montanti delle singole rate. Indica il valore alla scadenza. 5. Qual è il significato di S figurato N al tasso I? Indica il valore finale di una rendita unitaria di N rate al tasso I. 6. Come si calcola il valore attuale di una rendita anticipata differita? Il valore attuale della rendita anticipata differita va scontato del periodo di differimento, cioè moltiplicato per V alla M. Come si definisce una rendita temporanea? Una rendita temporanea ha una durata limitata ad un certo numero N di periodi. 8. Come varia il valore attuale di una rendita al variare della durata? Con lo stesso tasso. Il valore attuale della rendita è funzione crescente della durata. 9. Come varia il montante di una rendita al variare del tasso? Il montante di rendita è funzione crescente del tasso. 10. Come si calcola il montante di una rendita? Noto il tasso annuo nominale. Si converte il tasso nominale in tasso annuo effettivo, quindi si procede al calcolo del montante con la formula relativa. 11. Che relazione esiste tra V alla N ed U alla N? Il loro prodotto vale 1. 12. Dalla formula del montante di rendita posticipata, come si ricava la durata N? Partendo dalla formula iniziale m uguale a r per 1 più i alla n meno 1 fratto i, si procede, applicando i principi di equivalenza e di logaritmi, fino ad ottenere n uguale log di m per i più r meno log di r, tutto fratto log di 1 più i.